Halloween, Halloween, che ci frega di Halloween? Siamo italiani, quindi cattolici romani. Halloween, amen, Halloween, che ci frega? Vubis. Che paura. Paura, Credo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. E un saluto da Drago. Buon ogni santi a tutti. Buon ogni santi, Frohes Allerheiligen. Vabbè, pure in tedesco. Io faccio sempre confusione tra la festa di ogni santi, che è oggi, e quella dei defunti, che è domani. Ma sai perché fai confusione tu? Perché sei ignorante. Sei ignorante. Beh, questo è sicuro, ma non è una novità. E comunque si fa confusione perché oggi, essendo festa, la gente va al cimitero a mettere i fiori per la festa di domani. Che domani, giusto. Però, visto che domani si lavora, domani nei cimiteri non ci sarà nessuno. Ed è pieno oggi, invece. Quindi le vedove pensionate, però quelle ci sono di sicuro, anche domani. Perché sì, sono le vedove anziane, Drago, vedove, si sa, sono più numerose dei vedovi anziani. Ahimè, su questo non ci sono dubbi. E non abbiamo nemmeno bisogno di studi universitari particolari americani. Esatto, bravo, per favore. Noi uomini finiamo la benzina prima delle donne, quindi... Vabbè, dai, allegria, cominciamo questa puntata diciamo con una cosa però allegra, allegria, una cosa che mi hanno raccontato, che non ho ancora visto ma che vedrò presto, e cioè il nuovo modo di applaudire in TV. Cioè, in che senso? Mi hanno detto che in una delle ultime puntate dell'Infedele c'era un gruppo di indignados tra il pubblico, no? Cioè, spagnoli. Degli indignados. No, no, italiani, sono quelli di Piazza Santa Croce in Gerusalemme a Roma. C'è una piazza che si chiama Santa Croce in Gerusalemme, ma non è a Gerusalemme, è a Roma. Ma perché si chiamano qua, indignados, scusa? Perché? Sarebbe indignatos, ma mica vabbè, con la GN, ma vabbè, non ce l'hanno la GN. Gli indignati, chiamali come vuoi, il popolo indignati, Gerusalemme. Indignati. Vabbè, allora, c'erano questi indignati che per non disturbare gli oratori che stavano parlando, quando volevano applaudire, invece di battere le mani, le agitavano in aria come nel ballo di Simone. Sì, sono fautori del silenzio e della buona educazione, quindi per applaudire fanno così, si mettono lì tutti in cerchio. Ma cos'è? Puoi farle, ma com'è che alza le mani, puoi farle vibrare? No, ma dai. Ma cos'è sta roba? Sembra Asta Damiano. Ma in effetti, arredamenti, Asta così, Damiano, li vedi così, tutti no? In cerchio che invece di applaudire fanno così, hai capito? Allora, cosa vuol dire? Possiamo dirlo, infatti, che questa forma di acclamazione silenziosa sembra una stupidaggine, no? Perché come io sembra? Capisco le intenzioni, però il risultato finale è poco serio, sembra un gioco di gruppo di bambini, non so. Per essere preso sul serio io cambierei proprio strada, fossi un indignato, ma che ne so, di sicuro non scuoterei le manine così, No. Comunque abbiamo al telefono uno dei leader di questi silenziosi indignati. Pronto? Pronto? Bene, allora ci fate sentire un bel applauso? Grazie, a risentirci e grazie per l'applauso, grazie. Ma sei scemo? Pinocchietto va a palazzo. Pinocchietto va al palazzo. Con i libri sotto braccio. Con i libri sotto braccio. La lezione non la sa. La lezione non la sa. 104 piglierà. 104 piglierà. Con il 5 non si passa. Con il 6 così così. Con il 6. Con il 7 benvenino. Con il 7 benvenino. Con il 8 benvenotto. Con il 8 benvenotto. Con il 9, professore. Con il 10, professore. Direttore. Con il 10, direttore. Ma scusa, ma Visco è stato eletto governatore della Banca d'Italia? Sì, ma era ora, no? Ma Visco quello... Ma no! Ma no! Non è Vincenzo Visco, è Ignazio Visco. Mi sembrava strano. Quel Visco lì era nemico giurato di Tremonti. Vabbè, guarda, che pur di far dispetto a Tremonti, Berlusconi avrebbe anche nominato Vincenzo Visco a governatore. Però ha preferito questo Ignazio. Che non è la russa. Che non è la russa. No. Tra l'altro è stata una nomina a sorpresa, perché nei giorni scorsi si parlava di Bini Smaghi per quella poltrona lì. Se Bini Smaghi se ne fosse andato dalla BCE e fosse diventato governatore della Banca d'Italia, alla BCE sarebbe arrivato un francese e Sarkozy sarebbe stato contento. Invece adesso ce l'ha a morte con noi. Ma scusa, ma Sarkozy cosa va a pensare alla BCE? Ha appena avuto una bambina con Carla. Scusa, ma pensi un po' alla famiglia. Sempre con la Merkel, sono sempre insieme. Infatti la Bruni è un po' gelosa. Cioè, la Bruni è gelosa della Merkel. E per forza, la Merkel passa più tempo di lei con Sarkozy. Povera Carla, comincia a chiedersi cos'ha quella in più di me. Ma secondo me è contenta Carla, perché così ha tempo, capito? Sì, e poi scusa, cos'ha la Merkel in più di Carla? Appunto, cos'ha la Merkel innanzitutto in più di Carla? Ha una carrettata d'anni in più, giusto, è già lì. Quello sì. E poi ha una carrettata di rughe, sì. Una carrettata di vestiti orrendi. Vabbè, quindi c'è poco da temere, Carla, su, su, intanto via. Però Nicolà è sempre con Angela, in effetti. Sì, zitto, che poi sente, si inquieta ancora di più, Ma chi? Carla? Sì, perché ci sente? Ma presumo di sì, lei è sempre. Allora salutiamola, scusa. Ciao, ciao Carla! Come, allora. Ciao Carla Bruni o ciao Carla? Ciao Carla! Ciao Carla! Ciao Carla! Ciao Carla, ciao Carla Bruni, non lo so. Comunque, ciao, vendicati! Così. Vendicati col marito della Merkel, Carla! Ma tu l'hai visto il marito della Merkel? No. Appunto, allora piano coi consigli, Infatti. Noi dobbiamo sapere quali sono le coalizioni che da qui a qualche settimana dovranno presentarsi e presentare un programma e un candidato premier al paese. Noi rischiamo di stare col cerino in mano se aspettiamo che Bersani fa il gioco dell'asino di Buridan. Vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo. Sono di Buridano. Vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo. L'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo. L'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo, vado con questo e vado con questo. Alla fine rimane lui e muore di fame. Le persone serio. Ho fatto un misto tra tedesco e veneto, hai capito? È pieno sul lago di Garda. Sì, è pieno di tedeschi che parlano alla cise. Quindi proviamo. Proviamo. Le persone serio. Dai, non ci sono più. Ma sì che ci sono le persone serie. Samantha qua ce ne dice un po'. Corrado Augias, giusto. Michele Serra, serio? Sebastiano Barisoni, Vinicio Capossera, zitto, e Oscar Giannino. Beh, vabbè, qui siamo le solite. Sono sempre questi cinque, perché la tavolata da cinque, quindi non è una cena da sei. Nel senso qui che Samantha va a cena. Sì, con... però vuole aggiungerne una anche. Sì, perché dice: visto che è casa mia, invito chi mi pare, chiamerei anche Angela, non Merkel, ma Lansbury, che sarebbe Jessica Fletcher. Anche se così rischio che ci scappi il morto. È morto. Beh, qui i morti per questa cena potrebbero scapparci anche solo per l'età e per lo stato di salute degli invitati. Però con la Lansbury sarebbe proprio come attirarsi la sfiga. Però che dire, dai, che cena sarebbe con Barisoni, Capossela, Giannino, Augias, Serra e la Fletcher. E poi tra l'altro per educazione dovrebbero parlare tutti inglese per farsi capire dalla Fletcher, no? Vabbè, insomma, il livello culturale è alto, presumo che non avrebbero nessuna difficoltà a parlare inglese, no? Augias e Samantha, con... scusa, che Samantha, però è la padrona di casa, parla l'inglese? Se no, sai che fregatura. Vabbè, continuate a segnalarci le persone serie, che devo dire che Augias qui è stravotato, forse alla lunga sarà lui la persona seria del 2011, però continuate a impiastricciare il nostro muro Facebook con tutto quello che vi salta in mente, compresa la lista delle 5 persone serie da invitare a cena. Vai, le persone serie, non ci sono più. Sono tutti andati a casa di Samantha. Corrado Augias, Serra. A guardare la TV. No, la TV non si guarda. Si mettono lì, leggono tutti un libro, tutti un cerchio, e poi fanno così con le manine.